Ragazzi, v'annunzio Jake Wallace, il cantastorie del campo. La mia mamma, che farà se io non vorrò, se io non vorrò. Thank you. ragazzi, andatevi via, andatevi via, son malato, non so di che, mandatemi via, mandatemi via, son rovinato, son stanco di piccone di miniera, voglio l'aratro, voglio l'aratro mio. La sua carta. Sopra un cuore come si porta un fiore, non toccherà più carte. E questo è il segno, se s'attardassi a toglierlo indicatelo. Domani al campo tu spargi la voce. Ah! Ragazzi, siete buoni! Dallo, fuori! Vieni qua, via! Dallo, via! Un poker! Nick, gettoni! E il fuoco! Ragazzi, fate largo! Salute! Mr. Ashby dell'agenzia Wells Fargo. Nick, portami da bere. Come sta la ragazza? Grazie, bene. Grazie, bene. Il nuovo del bandito. Da 3 mesi l'ha posto. Non è molto risposto. Con che ruba come un gran signore, le spagnuolo, la banda di ladri a cui comanda e messicana, che taccia gagliarda sputa pronta tutto, state in guardia, io mi sdraio, sono stanco. Oh, lo salute! fra poco, no, faccia l'incidente. Mi dispende, non ti dispende, ragazzo, e questi che lavora, mi compagnisco. Se gli ombri api, capisca che vieni, ti volla, rara, ti volla, volla, rara, capisca che vieni, capisca che vieni, ti volla, mi dare. trentunesimo di David. Harry, ricordi chi era David? Era un re dei tempi antichi, un vero eroe, che quando era ragazzo armato si di una mascella d'asino. Dico! Dico! A propone giganti all'avanzò. Che confusione! Siedi! A posto giù! Ora leggiamo! Versetto secondo. Che stanotte a mezzanotte vada alle palme. quella Miguel Torrena è una canaglia. Aspi, non vi fidate. Vendette di donne innamorate, ad ogni modo ranz, tengo l'invito. Perfine, papagallo, siamo lì. Scusa, senti, ci scusa la mia vittima. E poi, senti, qualcosa mi sta succedendo. Sotto al mio paese, che faranno la città. Oh, meraviglietti! Bene, purtroppo ciò, ci sono cicce, non cicce tristi. Ciò che c'è, brutte nuove, su coraggio. E anche nonna se n'è andata. Uno straniero, non l'ho mai visto, sembra di San Francisco, ma chi è sto whisky ed acqua? Whisky ed acqua, chi sono questi mostri? C'è quello che gli ho detto, ma la purga si deve il whisky schietto. Intendo, gli aggiusteremo i ricci. Cammino dal fascino dell'ora. E questo il sole non m'ha ingannato. Chance! sacramento. Impegnato fra voi, giunse di sacramento. Grazie. Mi ricordate di me? Sì, se anche voi mi ricordate. E come non potrei, fu bel sentier che vena m'offrei. Fu nel tornare, m'offriste un primo di Gesolino. E poi vi dissi, andiamo a coglier le more. Ma io non venni. Ricordate, signore, come adesso io ripresi il cammino, voi dicevate, non ricordo più. Sì, che lo ricordate, dissi che da quell'ora non m'avresti scordato. Devo scordare. Mai, mai! Quando tempo sperai di rivedermi e non mi vidi più. Mr. Johnson, voi m'avete seccato! Sono Ran Sheriff, non mi lascio burlare. E venite a far qui. Ragazzi! Uno straniero ricusa confessare perché si trova al tavolo. Chi è, chi è, chi è? Faremo a cantare, faremo a cantare. Io lo conosco, il nunzio d'anno in poro, sto garante per giunto. Buonasera, Mr. Johnson. Ragazzi, buonasera. Non piacere per lui. Questo cialtrone spenderà quel male da padrone. Non ho mai ballato in vita mia. Andiamo. Avanti. Andiamo pure. Musica. Dentro che balla con quel pagli pedofino giunto da sacramento. Ragazzo, ragazzo! preso, Abel e San Morto. Figlio di cane, mostraci la tua lurida faccia. Tu sei con Ramirez? Un fuggito lo diavo, se volete vi porto sulla sua traccia. Questo sudicio ladro ci canna. No, non mi inganna. Conosci il nascondiglio? È poco più d'un miglio alla Madrona Cagnara. Vi mostrerò la strada in nome di mia madre, Maria Saltata. Giuro che non mi inganno. Se volete vi porto. Mi pianterò nel dorso la mia navata! Si va! E annuvolato avremo la tormenta! Legata! E il buon calmo si tenta! A cavallo! A cavallo! Non è preso e nel ballo! Dove si va? Dove si va? Si segue la linea! Bastano a guardare tesoro! Al guardiente! Mi sono lasciato prendere per sfidarli. Mi seguono nel bosco i nostri. Questo addreggio un fischio. Se c'è il colpo, col fischio rispondete. Quest'uomo sa la traccia di Ramirez. Ora via!

in quel barile Johnson c'è un tesoro, ci ripongono loro ragazzi. E mi lasciano così. Ogni no, io rimango qui a vegliarlo, a cura con me uno. Sto forte, sto forte, non vi aspettate molto, non che credo.